Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Amici di Blu Radio Veneto, nuova settimana, nuovi appuntamenti con l'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Saluto il presidente Carlo Garofolini. Ciao Francesco, un saluto agli ascoltatori. Allora, l'argomento che tocchiamo oggi è un argomento importante, perché insomma qualcuno ha avuto la fortuna di ricevere i famosi 80 euro promessi da Renzi in busta paga, ma bisogna stare molto attenti. Sì Francesco, sono molti ad aver avuto questa fortuna, è un intervento anche applaudito dall'Adico, perché poi comunque è stato un intervento che, per quanto discusso, comunque ha dato una piccola iniezione e una piccola boccata di ossigeno a molte persone, anche se a nostro avviso è un intervento molto discutibile, perché escluse i pensionati e chi prende meno di 8.000 euro, però l'argomento di oggi è che il bonus di 80 euro può rivelarsi un boomerang per oltre 1 milione di lavoratori, perché ci potrà essere la sorpresa il prossimo anno, in occasione della denuncia dei redditi, a doverlo restituire. Ecco, in questo caso è bene che cerchiamo di fare chiarezza. Che cosa intendi tu? Si potrebbe trovare a dover restituire gli 80 euro mensili che ha preso? Allora, dobbiamo cominciare a ragionare su chi ne ha diritto a questi 80 euro, e sono quei lavoratori che hanno un reddito lordo compreso tra gli 8.145 e i 24.000 euro. Poi, dai 24.000 e i 26.000, facciamo una precisazione, si continuano a ricevere, ma ridotto in modo assai repentino, fino ad azzerarsi secondo una formula precisa, che per ogni 100 euro di stipendio sopra i 24.000 euro il bonus cala di 4 euro. Quindi chi guadagna 25.000 euro ne riceverà 320 in un anno, e via dicendo, poi 40 euro e zero fino al raggiungimento dei 26.000 euro lordi. Però purtroppo il problema è che questi 80 euro sono stati dati su quello che è un lordo presunto, quindi nella condizione che una persona si trova per motivi diversi, quale ad esempio cambiare un lavoro durante l'anno o dover fare più straordinari rispetto a quella che era una sua normale orario di lavoro, il superamento di questi parametri potrà recare una mala sorpresa il prossimo anno in occasione del 7.30. Ecco, quindi addirittura uno potrebbe trovarsi a dover fare degli straordinari, dice vabbè, li faccio perché porto a casa un po' di soldi in più, e alla fine della fiera hai lavorato per niente, perché quei soldi che hai guadagnato in più per lo straordinario magari li devi restituire perché hai superato la soglia famosa dei 24.000. questo è quello che potrebbe capitare. Purtroppo sì, perché questa cosa tiene conto di quello, come ho detto, che è un lordo presunto che è stato stimato dall'azienda mi pare fosse ad aprile o a maggio di quest'anno, che però non può tener conto di quelle che potrebbero essere delle variabili che potrebbero capitare durante la vita lavorativa, e come ho detto potrebbe trovarsi una persona a dover fare di straordinario, e come ho detto magari anche a cambiare lavoro. Pensiamo che per esempio lavora in contratto a progetto o è abituato per forme di flessibilità a cambiare lavoro o più di un lavoro durante un anno. Certamente, mettendo insieme tutte queste cose, si può capitare che una persona ha avuto veramente bisogno di fare un po' di straordinario e prendere qualche soldino in più, e poi il prossimo anno, in occasione del 7.30, dovrei restituire. E certamente, se si arriva a superare i 26.000 euro lordi, vuol dire che, o i 24.000 euro lordi, vuol dire restituire grosso modo quei 70 euro al mese per 12, e quindi diventa anche una cifra abbastanza considerevole. Certo, è una cosa a cui bisogna prestare assoluta attenzione, quindi invitiamo gli amici di Blu Radio Veneto a stare attenti sotto questi termini. Altre cose che vogliamo dire? Niente, l'unica cosa che ci viene a dire riguarda un po' questo provvedimento che è stato tanto dibattuto, che anche noi come Adico siamo voluti intervenire un po' nella discussione, perché come abbiamo detto esclude lavoratori che prendono meno di 8.145 euro all'anno, per cui è capitato che per esempio in questo periodo molte persone sono venute all'Adico dicendo ma come, io prendo 600 euro al mese e non mi sono trovato gli 80 euro. Purtroppo chi prende meno di 8.145 non ne ha diritto. Come viceversa, sono capitati pensionati che sono rientrati nella fascia tra gli 8.100 e 24.000 euro, si aspettavano di poter prendere qualcosina e fondamentalmente non hanno preso nulla. Questo per far capire come questo provvedimento secondo me è rimasto un po' a metà strada, forse sì. Si poteva non dare 80 ma 60, ma a spendere a platea a tutti. Certamente piuttosto che non dare niente è sempre preferibile dare qualcosa. Sì. E per quanto riguarda questa cosa invitiamo gli ascoltatori che dovessero fare appunto straordinari o cambiare lavoro di valutare anche questa possibilità, perché poi i 730 non sempre sono fatti per andare a credito, ma può capitare veramente di restituire ingenti somme e poterci mettere in crisi. Sì, sono cose strane queste delle leggi che colpiscono certe fasce di persone. Ricordo per esempio quando all'epoca ci fu il bonus bebè, mio figlio nacque 15 giorni dopo la fine del provvedimento, e quindi una mia amica che aveva avuto due gemelli aveva preso 2.000 euro di bonus, il mio 15 giorni dopo niente. Quindi sono quelle cose che ti lasciano un po' l'amaro in bocca anche in questo caso. Sì, purtroppo lasciano l'amaro in bocca, ma ti dirò anche che abbiamo avuto molte persone che hanno ricevuto l'avviso dell'Agenzia delle Entrate di doverli anche qua restituire, perché tanti che hanno ricevuto il bonus bebè anche senza farne richiesta si sono trovati a dover rischiare di pagare anche una multa salata, in quanto non avevano calcolato sul lodo il reddito catastale finito dell'abitazione, quindi superavano lo scoglio. Quindi a volte questi automatismi si possono violare, molto pericolosi, e nel caso di 80 euro è stato stimato che ci saranno circa 1 milione di lavoratori a doverli restituire, quindi non si tratta certamente di poche persone. Assolutamente, grazie per questa importante segnalazione, grazie all'Adico e al presidente Carlo Garofolini. Grazie a te Francesco, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.